sul mic, Ermal Beat. Che ne sai te Fagiano, la città è roba nostra, da qua non ce ne andiamo, la presidiamo. Ehi, vieni a prenderci qui dietro, non ci potete arrivare, Fagiani. Dalle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, avanti fuori di là, da qua non ce ne andiamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco in blasta, da voi come va? Sulle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, adesso veniamo là, da qua non ci muoviamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco a tutto, da voi come va? Venite a prenderci, sapete come farlo. Sto qui dietro perché fa più caldo, perché qui sto in alto. Piscio sulle schiene di chi scala questa barricata. Difendo le mie posizioni in strada come in casa. Ed è disobbedienza urbana, non ho problemi a dirlo. La voglia di reagire a questo schema è di aggredirlo. Noi siamo diversi perché io c'ho qualche grillo. Non bastano te dischi per dire che ti assomiglio. Io c'ho il mic e flow, c'ho i bro che riflettono sul nostro hip hop dentro i loro iPod. E la città è roba nostra, lo vedi nella metro, ogni vagone lo dimostra. Hey Breakers, da sono in marciapiedi, hey, e i DJ sconfiggono i doppi vetri. E se tua figlia ti chiede chi siamo, tu non glielo spieghi. Tu che non sai dove va quando esce con la sua amichetta. Riunioni clandestine sì, per gente di mente più aperta. Io lo spingo a bestia come solo faccio mo. Fomento una rivoluzione culturale, no, lo so che mi capisci male. Ti regalo materiale che puoi trasformare nelle solite cazzate. Tu scrivi il tuo giornale, non ci abbiamo rime per le masse da sfamare. Dalle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, avanti fuori di là, da qua non ce ne andiamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco in blasta, da voi come va? Sulle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, adesso veniamo là, da qua non ci muoviamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco a tutto, da voi come va? Va come dovrebbe sulla base di Erma, dove ad ogni mente fica diamo lirica e sperma per fecondare la rivolta. Il rap barricadero è una questione irrisolta. Se lo vuoi me lo produci senza cazzo di filtri. Se te gusta commerciale cerca gangsta alla 50. Se io suono commerciale forse sembro Alex Pitti, ma c'ho il culo di tua madre, non so se lo capisci che non scherzo. No, no, no, scherzo. Il rap che usate poco ve lo porto più spesso. Nei club ci vado poco perché vado più spesso. Nei cinema che lì nessuno guarda in cagnesco. Il discografico mi vuole barricato dietro le sue bancarelle perché quello lì è il mercato. Il poliziotto che pretende il mio rispetto c'ha la moglie graduata sui 90 del mio letto. La sua divisa con il ferro è patetica. Tu sei una merda sempre, mica iniziato a Genova. Le tue torture assassino, ringrazio ogni giorno che non mangio senza il tuo distintivo. Dalle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, avanti fuori di là, da qua non ce ne andiamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco in blasta, da voi come va? Sulle barricate noi gridiamo, le guardie ci rispondono, adesso veniamo là, da qua non ci muoviamo, presidiamo la città, noi diamo fuoco a tutto, da voi come va? Va, va, va.